C'è una donna eccezionale, come mai ne vidi uguale, nata apposta per mandarmi all'ospedale. Mi fa fremere e gelare, delirare e spasimar, ma l'inferno e il paradiso a me trovar. Sei tu, oh Margherita, la sola donna che impazzir mi fa d'amor. Sei tu, oh Margherita, che a goccia mi dissangui questo cuor. Non hai pietà del mio languir, con voluttà mi fai morir. Sei tu, oh Margherita, la sola donna che impazzir mi fa d'amor. Margherita, non sei tu, che non mangio e dormo più, ed un'ostia son ridotto su per giù. Spremi tu la tua passion come spremere un limon, e non vedi che ho perduto la ragion. Sei tu, oh Margherita, la sola donna che impazzir mi fa d'amor. Sei tu, oh Margherita, che a goccia mi dissangui questo cuor. Non hai pietà del mio languir, con voluttà mi fai morir. Sei tu, oh Margherita, la sola donna che impazzì mi fa d'amor. Non hai pietà del mio languir, con voluttà mi fai morir. Sei tu, oh Margherita, la sola donna che impazzir mi fa d'amor.